Allora, torniamo in diretta. Come annunciato, e appunto parlavamo della violenza degli uomini contro le donne, siamo pienamente in argomento, parliamo della non applicazione della 194. Allora, è uscito, insomma ormai lo saprete, una inchiesta di Repubblica che appunto dice niente di molto diverso da quello che negli anni noi e tante altre compagne andiamo dicendo. Abbiamo al telefono Paola dell'Assemblea dei Consultori RMH, giusto? Sì, ecco. Certo, Assemblea delle Donne dei Consultori ASL RMH. Già come suona bene Assemblea delle Donne. No, suona bene. Vabbè. Repubblica appunto ha tirato fuori con numeri alla mano che poi in realtà non sono molto aggiornati, risalgono al 2008, sono fonte Istat, Ministero, insomma un po' mischiati, non molto attendibili, quindi possiamo anche forse raddoppiare le stime, loro stesse le dicono. L'80% dei ginecologi è obiettore, dei ginecologi è obiettore di coscienza, e quindi diciamo questo causa un ritorno ai cosiddetti aborti clandestini, che verrebbero quantificati appunto dal giornale su 40-50 mila circa. E vabbè, l'inchiesta è abbastanza ricca, nel senso, poi appunto ripeto, non dice cose molto nuove per noi, insomma, che molti ginecologi che sono obiettori poi gli aborti li vanno a praticare invece nei loro studi per la modica cifra di 3.000 euro più o meno un aborto terapeutico, 400 euro una interruzione di gravidanza, insomma questo l'avete raccontato anche voi molto. E appunto noi ti prendiamo un po' come osservatorio permanente, diciamo, almeno del Lazio. E una cosa che manca invece, non viene presa molto in considerazione, è l'uso della pillola del giorno dopo, su cui invece voi tanti interventi avete fatto, e quindi possiamo arricchire forse un po' questa inchiesta con una riflessione anche su questo, che poi si tratta di un contraccettivo, insomma. Sì, la pillola del cosiddetta pillola del giorno dopo, Norlevo, poi c'è anche un altro nome, Levonel, insomma sono una serie di farmaci che hanno appunto questa capacità, questa possibilità di far interrompere sostanzialmente, dell'insediamento dell'ovulo, quindi dell'inizio della gravidanza. E è un contraccettivo d'emergenza, non è intanto una pillola abortiva, quindi questa è una cosa che va specificata nei volantini, nei documenti, nelle informazioni che vanno date, bisogna sottolineare questo fatto, non è una pillola abortiva. E quindi i medici che applicano l'obiezione di coscienza sulla pillola del giorno dopo vanno assolutamente denunciati alla ASL di competenza e comunque anche con denunce di natura giudiziaria, eventualmente legale, perché non lo possono fare, quindi sono dei raccontafrottoli in questo caso. Però purtroppo succede che non sono obiettoni, però fanno delle storie, diciamo, in qualche modo impediscono alla minore soprattutto, no? Perché poi le donne adulte ovviamente in qualche modo si sanno difendere. La minore che va a chiedere la pillola il giorno dopo, di solito alla guardia medica, perché o al pronto soccorso dell'ospedale, a parte a belle attese, lunghissime, cose che non dovrebbero neanche essere previste, perché la pillola prima viene assunta più è efficace. Quindi questa è una cosa che il medico sa, però si approfitta in qualche modo del suo potere sulla minore e non solo la fa aspettare tantissimo, ma spesso e volentieri dice io non lo posso fare perché non ti conosco. Quindi si avvale di questo potere di non conoscenza della paziente, in questo caso della donna che va a chiedere la pillola del giorno dopo, della minore, della ragazza, per dire io non mi fido di fare questa cosa. Ultimamente a noi è capitato di una ragazza che conoscevamo, che è andata a prendere la pillola del giorno dopo, al quale il medico ha fatto firmare una liberatoria. Nel senso, un foglio di carta stampato in cui c'era scritto che la tipa XY eccetera eccetera assicurava che si prendeva il farmaco sotto la sua completa responsabilità, e quindi scagionava il medico da qualsiasi cosa potesse succedere. Allora, noi ovviamente abbiamo saputo questa cosa, abbiamo chiesto se questa pratica è regolare, nel senso se è contemplata, e ovviamente ci hanno risposto assolutamente assolutamente no, è un'iniziativa autonoma del medico, che il medico può prendere, però è chiaro che andrebbe contestata anche questa, quindi la minore dovrebbe essere informata che nel caso il medico le proponga questa firma, non solo si può rifiutare, ma lo deve denunciare comunque o all'Assemblea delle Donne se c'è, o comunque a chi di dovere. Di dovere, insomma, rendere pubblica questa operazione così di potere non meglio non meglio definita. Sì. E questa appunto è una cosa in merito alla pillola del giorno dopo. E poi c'è anche la RU486, però, che invece è pillola abortiva in questo caso, che è potrebbe essere assunta, nel senso che per fortuna è stato liberato il divieto, il diniego e l'obiezione in merito a questa pillola, però per esempio nel nostro territorio, ai Castelli Romani o comunque nella ASL ed MH, si può prendere soltanto in un ospedale ed è a Nettuno. Cioè, per dire, sì, io abito a Frascati e quindi sto all'interno della ASL ed MH, ove mai volessi fare un'interruzione di gravidanza utilizzando la pasticca, la pillola abortiva RU486, sotto mia responsabilità, sono io che decido di farlo ovviamente, certo, deve andare fino a Nettuno, dove c'è l'unico medico, comunque l'unici due medici che comunque si prendono questa responsabilità, tra virgolette, e comunque forniscono questo farmaco, che è una cosa incredibile, perché noi abbiamo una serie di ospedali, voglio dire, è uno, due, tre, quattro, insomma, dobbiamo, è un ampio territorio, no? Mm-hmm. E ci sono parecchi ovviamente consultori, ci sono, eppure la donna deve andare fino a Nettuno, ove mai volesse questa pillola RU486, e anche questa è una cosa di, secondo me anche di una certa rilevanza, sì, perché c'è sì, proprio una non volontà di offrire tutta una serie di possibilità e di servizi alla donna che richiede l'IVG come in forma punitiva. Sì. Questa è una cosa che ormai, dalla pillola del giorno dopo, che è prima, all'interruzione di gravidanza dopo, anche eventualmente con una pillola, perché è stata criminalizzata, perché poi il medico ovviamente ha bisogno la normativa che è stata approvata, si spera che adesso possa cambiare, prevede addirittura il ricovero per 3 giorni nel momento in cui tu prendi la pillola RU486 dentro un ospedale. Allora noi sappiamo perfettamente la difficoltà di trovare un posto letto, la difficoltà comunque di ricovero eccetera dentro gli ospedali per carenza di posti letto eccetera eccetera, e anche di personale stesso. Se tu, medico, vuoi praticare la RU486, devi avere a disposizione, quindi te la deve dare ovviamente il direttore dell'ospedale dove tu pratichi, devi avere un letto disponibile, il letto lo devi quindi sottrarre, no, ai ricoverati che stanno all'interno dell'ospedale o a chi per esempio chiede l'IVG la pratica normale, tra virgolette, non con la pillola. Cioè, ci sono una serie di difficoltà periodiche e persistenti che guarda caso intervengono quando si tratta di rendere difficoltoso una libera scelta della donna di qualsiasi età abbia in merito alla procreazione e quindi alle sue decisioni. Eh sì, una situazione peraltro appunto in tutta Italia. A Bari pare che gli ultimi due medici che facevano appunto gli aborti abbiano smesso, abbiano deciso di abbandonare il reparto, anche evidentemente sovraccarichi. A Napoli c'è un solo ospedale in tutta la città che pratica l'aborto, e addirittura le cifre che l'inchiesta sul Lazio riporta sono del 91% dei ginecologi obiettori di coscienza. Guarda, forse il 91 no, però esatto, è chiaro che un 80% è quasi sicuro, anche perché è capitato che anche ginecologhe che noi conosciamo, esaurite dall'eccesso di peso, di anche di natura non soltanto medica, ma insomma anche di pressioni che le venivano fatte loro, poi alla fine hanno anche deciso di fare l'obiezione di coscienza, che noi sappiamo che è una cosa non reale, non è una vera obiezione di coscienza, però sostanzialmente si sono sottratte a fare perennemente aborti, quindi interruzioni di gravidanza, circondate da colleghi che magari la considerano male. Ma la stessa mitica Giovanna Scassellati, se vi ricordate, l'anno scorso, 2 anni fa, fece una obiezione di coscienza simbolica, dicendo non ce la faccio più, ovviamente. E questo, se voi sentite, spero che in questa vostra inchiesta sentirete tutti i vari medici che fanno questo tipo di servizio, vi racconteranno le stesse cose. Compreso, quindi, un problema di carriera, diciamo, perché poi sarà interessante sentire anche loro, perché appunto pare che anche c'è questo aspetto per cui è più difficile fare carriera se viene discriminati abbastanza negli ospedali quando sei uno o due che pratica interruzione di gravidanza, insomma. Certo, no, ma io mi ricordo che c'era Silvana Agatone, mi pare Agatone, sì, che è una ginecologa bravissima, che insomma fa ovviamente l'interruzione di gravidanza in maniera anche molto responsabile rispetto a questa cosa, che si lamentava proprio di questa solitudine, cioè se tu sei sola in reparto a fare questa cosa, alla fine diventa anche pesante, no? la tua vita operativa, diciamo, all'interno dei reparti degli ospedali. Quindi anche questo è come se ci fosse una criminalizzazione, un mobbing, diciamo così, non so se adesso va di moda che qualsiasi cosa è un mobbing, però di fatto succede questo: se tu sei sola o solo a fare questa cosa, diventa pesante, insomma, ecco. Poi ovviamente incita a valersi dell'obiezione di coscienza, perché alla fine sì, infatti. E poi sono miliardi le cose da poter dire in merito, No, infatti, noi purtroppo il tempo è sempre pochissimo, e forse possiamo chiudere anche una cosa sui consultori, cioè sull'importanza poi dell'assemblea delle donne nei consultori, perché altri presidi territoriali teoricamente sono quelli, non godono di buona salute, sarebbe anche lì da fare una, però voi siete un'assemblea, diciamo, più o meno delle donne in quel consultorio, e insomma, immagino. Sì, diciamo che agisce in qualche modo da raccordo, no? Cioè, ti faccio soltanto un esempio: noi abbiamo fatto una occupazione, poi ne abbiamo parlato in radio, un'occupazione simbolica, ovviamente, del terzo piano dell'ospedale di Marino, che era stato messo a punto, perfetto, tutto a posto, sì. E non veniva aperto. E, dopo questo, ripeto, un'occupazione puramente simbolica, in accordo anche con operatrici e non solo, e guarda caso poco dopo sono riusciti a farlo aprire, e poi abbiamo fatto una bellissima assemblea sempre all'ospedale, all'interno dell'ospedale, a cui ha partecipato tantissima gente, dimostrando appunto che se ci si muove, le persone all'interno degli ospedali, all'interno dei consultori, sono sensibili, anche se sbuffano, dicono no, tanto non si può fare niente, perché c'è quel tipico atteggiamento da operatore sanitario, per cui tanto non si può fare nulla, è tutto politico, che è anche vero, perché poi la presenza invasiva, no, dei politici di turno, che si fanno avanti prima delle elezioni, perché ovviamente promettono cose che in parte fanno, in parte non fanno successivamente, è anche questo un'altra costrizione all'interno della sanità pubblica. Per cui, ecco, dopo questa assemblea che è andata molto bene, il direttore dell'ospedale, quando aprì poi il terzo piano, ci portò a far vedere il posto dove si partoriva, la vasca dove si sarebbe partorito nel migliore dei modi. Attualmente c'è una tale criticità, come la chiamano loro, dovuta alla razionalizzazione, alla privatizzazione, a quello che conosciamo nella struttura sanitaria, che di nuovo è a rischio lo stesso posto che è stato appena aperto. E questo vale per tutte, cioè ci sono delle spese enormi per ripristinare alcuni reparti, per mettere in atto quello che è doveroso, che vengono chiusi di lì a poco per motivi più o meno imprecisati, insomma, sostanzialmente per poco personale, per esempio. Quindi un grande spreco. Chiaro che se tu c'hai l'ospedale, non c'hai né medici, né infermieri, né ostetriche, chi le fa le cose? Capito? Certo. E quindi, da un lato, la disoccupazione di sempre degli infermieri, dei medici un po' meno, però anche lì, insomma, se sei un ginecologo non obiettore, probabilmente c'hai difficoltà. Quindi, ecco, è tutta una catena in cui bisognerebbe molto stare attenti e esercitare una forma di io la chiamiamo controllo, ma è semplicemente verifica di quello che succede, in modo che trovi i punti deboli e puoi agire su quei, su quelle, su quegli atti. Insomma, ci sono delle cose ovviamente che non si riescono a, a, come si dice, a, a risolvere, perché se c'è poco personale, tu lo puoi dire, ma poi materialmente deve essere la regione che comunque fornisce, certo, la grana, volgarmente dicendo, per stipendiare in qualche modo le nuove, i nuovi operatori sanitari. Certo, certo. E questa cosa varrebbe, come discorso, varrebbe anche appunto per i medici non obiettori, per cui insomma ci sono una marea di possibilità di poterli così accattivare per essere presenti all'interno degli ospedali, che vanno da, appunto, dal gettone, noi ci hanno suggerito il gettone di presenza per il medico non obiettore, cioè lo devi in qualche modo incentivare con una forma di pagamento, no? Soldi, sempre soldi, no? Sì. Resto. sembra uno scherzo, ma è così. Va bene, Paola, noi ti ringraziamo molto per l'ennesimo aggiornamento, insomma, di una situazione che noi conosciamo abbastanza bene, e poi raccogliamo appunto l'invito a vigilare, a controllare, a creare assemblee dentro i consultori, a insomma creare almeno delle situazioni che possano anche venire incontro alle donne che effettivamente hanno enormi difficoltà, dalla pillola del giorno dopo all'aborto terapeutico, insomma. Non sì, e poi soprattutto fare l'assemblea fa bene alla salute, eh? Prima esatto, avete fatto, diciamo, tutto un elenco di cose che fanno bene alla salute, e riunirsi in assemblea, guardarsi negli occhi e discutere e decidere qualcosa da fare, anche di conflittuale, fa bene alla salute. Quindi spero che solo, ecco, diciamo così, cominciamo a dire, fare le assemblee, non solo quelle delle donne, ma tutte, fa bene alla salute. Fa bene alla salute, ottimo, bene, mi sembra, ciao, un'ottima bella chiusura. Un abbraccio, grazie, ciao, Paola. Ciao, ciao, ciao, bella, ciao. Ciao.